Fu così che il principe venne introdotto in casa di Madame de Villeparisis. Quando aprì bocca, mi pervase una profonda delusione. Non avevo calcolato che, se un'epoca ha certe caratteristiche particolari e generali più spiccate di una nazionalità, di modo che, in un dizionario illustrato, dove figura persino il ritratto autentico di Minerva, Leibniz non differisce granché, con la sua parrucca e la sua gorgiera, da Marivaux o da Samuel Bernard. Una nazionalità ha caratteristiche particolari più spiccate di una casta. Ora, esse si tradussero per me, anziché in un discorso nel quale ero convinto a priori di cogliere il fruscio degli elfi e la danza dei coboldi, in una trasposizione non meno rivelatrice di quella poetica origine, vale a dire nel fatto che, inchinandosi, piccolo, rosso e panciuto, davanti a Madame de Villeparisis, il ringravio le disse: «Buongiorno, signora marchesa», con lo stesso accento d'un portiere d'albergo alsaziano. «Gradite una tazza di tè o una fetta di torta? È molto buona», mi disse Madame de Guermantes, desiderosa di mostrarsi con me il più possibile cortese. «Faccio gli onori di casa come se fossi io la padrona», aggiunse con un'inflessione ironica che dava un che di gutturale alla sua voce, come se stesse soffocando una risata un po' rauca. «Ricordatevi, signore», disse Madame de Villeparisis a Norpois, «che avete qualcosa da dire al principe a proposito dell'Académie?» Madame de Guermantes abbassò gli occhi e fece ruotare il polso d'un quarto di giro per controllare l'ora. «Oh mio Dio! Bisogna proprio che prenda congedo dalla zia. Devo ancora passare da Madame de Saint-Ferréol e poi sono a pranzo da Madame Leroy». E si alzò senza salutarmi. Aveva avvistato Madame Swann, che parve piuttosto imbarazzata dalla mia presenza. Con ogni probabilità ricordava d'avermi detto, prima di chiunque altro, d'essere convinta dell'innocenza di Dreyfus. «Non voglio che mia madre mi presenti a Madame Swann», mi disse Saint-Lieu. «È un'ex puttana, suo marito è ebreo e lei viene a farci la nazionalista. Ah, guarda, c'è mio zio Palamède!» La presenza di Madame Swann rivestiva per me un interesse particolare per via di un episodio, verificatosi alcuni giorni prima, che è necessario riferire in considerazione delle conseguenze che avrebbe avuto molto più tardi e di cui si potranno esaminare a tempo debito i dettagli. Dunque, qualche giorno prima della mia visita a Madame de Villeparisis, ne avevo ricevuta una affatto inattesa, quella di Charles Morel, il figlio, a me sconosciuto, dell'ex cameriere del mio prozio. Questo prozio, in casa del quale avevo incontrato la signora in rosa, era morto l'anno precedente. Il suo cameriere aveva manifestato a varie riprese l'intenzione di venire a trovarmi. Ne ignoravo lo scopo, ma l'avrei accolto volentieri, avendo saputo da Françoise che aveva serbato un vero e proprio culto per la memoria dello zio e non tralasciava occasione per recarsi in pellegrinaggio al cimitero. Ma, costretto a tornare al suo paese per sottoporsi a delle cure e contando di rimanerci a lungo, aveva lasciato l'incarico a suo figlio. Non senza sorpresa vidi entrare un bel ragazzo di 18 anni, vestito in modo più sfarzoso che elegante, ma che in ogni caso faceva pensare a chiunque tranne che a un cameriere. Provvide subito, del resto, a troncare ogni legame con le sue origini servili, annunciandomi con un sorriso soddisfatto d'essere un primo premio del conservatorio. Lo scopo della visita era il seguente. Fra i ricordi dello zio Adolphe, suo padre ne aveva messi da parte alcuni che gli era parso poco opportuno consegnare ai miei, ma che, a suo giudizio, potevano interessare un giovanotto della mia età. Erano le fotografie delle attrici celebri, delle grandi cocotte, che lo zio aveva conosciute, Ultime immagini di quella vita da vecchio gaudente che egli separava, con una paratia stagna, dalla sua vita familiare. Mentre il giovane Morel me le mostrava, notai l'ostentazione con cui insisteva a parlarmi da pari a pari, nel dire «voi» e il meno possibile «signore», gustava il piacere di uno il cui padre non aveva mai osato, rivolgendosi ai miei parenti, che la terza persona. Quasi tutte le fotografie recavano una dedica del tipo «al mio migliore amico». Un'attrice più ingrata e più accorta aveva scritto «al migliore degli amici», ciò che le consentiva, a quanto mi è stato assicurato, di sostenere che lo zio non era affatto, neppur lontanamente, il suo migliore amico, bensì l'amico che le aveva reso il maggior numero di piccoli servigi, l'amico di cui lei si serviva, un brav'uomo, insomma un vecchio scemo. Il giovane Morel aveva un bel cercare di sfuggire alle proprie origini. Si sentiva che l'ombra dello zio Adolf, venerabile e smisurata agli occhi del vecchio cameriere, non aveva smesso di incombere, quasi sacra, sull'infanzia e la giovinezza del figlio. Mentre io guardavo le fotografie, Charles Morel esaminava la mia camera e poiché cercavo un posto dove metterle al sicuro, «Ma com'è possibile?» esclamò, in un tono che non aveva bisogno di essere di rimprovero, tanto questo risiedeva nelle parole stesse. «Che non teniate in camera nemmeno una fotografia di vostro zio?» Mi accorsi di arrossire e balbettai «Ma credo di non averne». «Come? Non avete fotografie di vostro zio Adolf che vi voleva tanto bene? Ve ne manderò io una, la prenderò da quelle del babbo, ne ha tante». «E spero, anzi, che la metterete al posto d'onore, su quel cassettone che per l'appunto avete ereditato da lui». Però è che, non essendoci nella mia camera fotografie di mio padre o di mia madre, non era poi così sconvolgente che non ci fosse quella dello zio Adolf. Ma non era difficile immaginare che, per Morel, il quale aveva inculcato al figlio il suo punto di vista, lo zio fosse il personaggio di spicco della famiglia, del cui splendore non toccava ai miei genitori che un fievole riflesso. Io ero visto sotto una luce più favorevole, perché lo zio ripeteva quotidianamente al suo cameriere che sarei diventato una specie di Racine, di Volabelle, e Morel mi considerava all'incirca come un figlio adottivo, come un erede d'elezione di mio zio. Non tardai a rendermi conto che il figlio di Morel era un arrivista. Quel giorno stesso, infatti, mi chiese se non conoscessi qualche poeta bene introdotto nell'aristocrazia, perché era anche un po' compositore e in grado di mettere in musica qualche verso. Gliene nominai uno. Non conosceva le sue opere né aveva mai sentito il suo nome, di cui prese nota. Ebbene, venni a sapere poco dopo che gli aveva scritto per dirgli che, ammiratore fanatico delle sue opere, aveva musicato un suo sonetto e sarebbe stato felice se l'autore del testo ne avesse promosso un'esecuzione in casa della contessa. Il procedimento era un po' troppo sbrigativo e smascherava il piano di Morel. Il poeta, seccato, non rispose. Per il resto, accanto all'ambizione, Charles Morel sembrava avere una forte inclinazione verso realtà più concrete. Aveva notato, in cortile, la nipote di Jupien, che stava confezionando un gilet e, sebbene si limitasse a dirmi che aveva appunto bisogno di un gilet fantasia, capì che la ragazza lo aveva profondamente colpito. Non esitò a chiedermi di scendere con lui e presentarlo. «Ma senza parlare della vostra famiglia, mi spiego? Conto sulla vostra discrezione per quel che riguarda mio padre. Presentatemi soltanto come un famoso artista vostro amico. Voi mi capite, bisogna fare buona impressione ai commercianti». Benché m'avesse insinuato che, non conoscendolo abbastanza, se ne rendeva conto per chiamarlo caro amico, avrei comunque potuto, davanti alla ragazza, dirgli qualcosa come «Non, caro maestro, evidentemente, per quanto se non vi dispiacesse, ma per esempio, caro artista». Evitai nel negozio di qualificarlo, come avrebbe detto Saint-Simon, e mi limitai a rispondere col «voi» al suo «voi». Adocchiò, fra altre pezze di velluto, una del rosso più acceso e a tal punto chiassoso che poi, malgrado il suo cattivo gusto, non riuscì mai a portare quel gilet. La ragazza si rimise al lavoro con le sue due apprendiste, ma mi parve che l'impressione fosse stata reciproca e che Charles Morel, da lei creduto del mio stesso ambiente, ma lui più elegante e più ricco, le fosse singolarmente piaciuto. Poiché mi ero molto meravigliato trovando fra le fotografie inviatemi dal suo padre una riproduzione del ritratto di Miss Sacripant, cioè di Odette dipinto da Elstir, dissi a Charles Morel, accompagnandolo sino al portone: «Chissà che voi non possiate illuminarmi. Mio zio la conosceva bene, quella signora? Non capisco in che periodo della vita dello zio la si possa situare. E la cosa mi interessa in relazione al signor Swan». «Ecco, dimenticavo appunto di dirvi che mio padre mi ha raccomandato di richiamare la vostra attenzione sulla signora in questione. Effettivamente, quella de Mondain era a colazione da vostro zio l'ultima volta che l'avete visto. Mio padre era incerto se lasciarvi entrare. Sembra che le foste molto piaciuto e che sperasse di rivedervi. Ma proprio allora ci furono dei dissapori in famiglia, a quel che mi ha detto mio padre, e voi non avete più rivisto vostro zio». A questo punto sorrise, per salutarla da lontano, alla nipote di Jupien. Lei lo stava guardando e certamente ne ammirava il volto magro ma regolare, i morbidi capelli, gli occhi vivaci. Io, stringendogli la mano, pensavo a Madame Swan e mi dicevo con stupore, tanto erano diverse e divise nel mio ricordo, che ormai sarei stato costretto a identificarla con la signora in rosa. Il signor de Charlieu era già belle seduto accanto a lei. In tutti i salotti dove gli capitava di trovarsi, sprezzante verso gli uomini, corteggiato dalle donne, si incollava senza indugio alla più elegante, dalla cui toilette si sentiva addobbato. La redingote o il frac facevano assomigliare il barone a quei ritratti di un grande colorista, nei quali un uomo in nero ha accanto a sé, su una sedia, il mantello sgargiante che indosserà per un ballo mascherato. Simili accoppiamenti, per lo più con qualche altezza, procuravano al signor de Charlieu certi privilegi di cui era goloso. Implicavano, per esempio, che le padrone di casa, ad una festa, gli concedessero di stare davanti lui solo, con la sua sedia, in una fila di signore, mentre gli altri uomini si pigiavano in fondo alla sala. Inoltre, tutto impegnato in apparenza a raccontare ad alta voce storielle amene all'affascinata vicina, Charlie era dispensato dall'andare a salutare gli altri, insomma da ogni obbligo sociale. Dietro la barriera profumata offertagli dalla prescelta beltà, egli si isolava in mezzo ad un salotto come si fa a teatro dentro un palco, e quando qualcuno andava a salutarlo attraverso, per così dire, la bellezza della sua compagna, appariva scusabile che, per non smettere di parlare a una signora, lui si degnasse appena di rispondere. Certo, Madame Swan aveva ben poco a che vedere, quanto a rango sociale, con le persone accanto alle quali il barone amava esibirsi. Ma Charlotte professava ammirazione per lei, amicizia per Swan. Sapeva che lei sarebbe stata lusingata dalle sue premure ed era a sua volta lusingato di farsi compromettere dalla più bella fra le persone presenti.